La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, sono 16:29, anzi 30 primi in questo preciso secondo. Oscar Giannino vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta o in podcast, qui è la versione di Oscar. Vi ricordo l'indirizzo della versione di Oscar, @radio24.it, per candidarvi a intervenire in trasmissione nella serie di puntate che facciamo ogni settimana. Via dall'Italia per giovani o meno giovani che appunto lo hanno fatto o sono fuori per formazione o per lavoro, in termini comparati ritenendo che sia molto meglio di ciò che può offrire l'Italia, o per chi lo ha fatto e è tornato o non lo fa e decide invece, spiegandoci perché non si decide a farlo, ritiene sia giusto non farlo. Ricominceremo da lunedì. Oggi facciamo un aggiornamento della puntata invece per i fatti relativi all'Europa. Ieri abbiamo sentito due voci di chi sostiene no, non c'è vantaggio per uscire dall'Unione Europea, e la stabilità dei prezzi, seconda voce, in questi anni in realtà ha lavorato a favore di chi ha basso reddito in Italia, perché l'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi importati, soprattutto dei beni, è significativamente stato più contenuto di quello invece dei beni e servizi prodotti in Italia, che contribuiscono invece a un andamento più inflazionistico. Siamo in anni di inflazione a 0, il dato mensile rilevato stamattina dall'Istat è più 0,9, ma è in forte aumento rispetto al più 0,5 del mese precedente. Ma insomma, ieri abbiamo sentito due voci relative a chi la pensa in un modo. Oggi facciamo un aggiornamento su che cosa avviene invece in un paese che ha fatto un referendum per uscire e ha vinto chi proponeva l'uscita, cioè la Brexit, perché nel frattempo è avvenuto il voto del Parlamento a cui la Suprema Corte ha costretto il governo May, dicendo no, ci vuole un governo, ci vuole un voto parlamentare per decidere l'attivazione dell'articolo 50 del Trattato dell'Unione Europea, e cioè l'articolo che formalizza la richiesta di uscita e che poi apre a una trattativa per le condizioni relative al nuovo regime di rapporti con l'Unione Europea del paese che esce, dal punto di vista della libertà delle persone, dei beni, dei servizi, dei capitali. Visto che a quel punto, se si esce, non si aderisce più al mercato unico, e questo voto si è tenuto in Parlamento con delle sorprese, sicuramente per chi lo guarda con un occhio italiano. Innanzitutto il voto è andato straordinariamente bene, ovviamente, per il Brexit, una maggioranza schiacciante. Ma prima notizia, in realtà la stragrande maggioranza dei parlamentari laburisti, ricordate, i laburisti in Gran Bretagna sono guidati da Jeremy Corbyn, accusato dagli stessi laburisti di non aver fatto che una tiepidissima campagna contro il Brexit. Ebbene, la stragrande maggioranza dei deputati laburisti ha votato per l'attivazione dell'articolo 50, non contro, per. Io mi aspettavo su questo di vedere qualche articolo in Italia sulla scelta dei laburisti di votare a favore e non contro. E una minoranza, cioè uno su quattro dei parlamentari laburisti, invece ha votato contro l'attivazione dell'articolo 50. Il problema è che era Jeremy Corbyn che ha detto di votare a favore. Chi ha votato contro era contro la linea del partito, anche se paradossalmente sarebbe sembrato il contrario in campagna referendaria. Quindi prima contraddizione, anche alcuni membri dello shadow cabinet del governo ombra laburista hanno votato contro la linea del partito, e cioè a favore del Remain, non del Leave. Ulteriore crisi nei laburisti, ma non mi interessa tanto l'aspetto interno laburista. Mi interessa parlarvi, farvi spiegare da chi sta lì, che ora vi presento, qual è la logica per la quale i laburisti hanno votato in realtà a favore e non contro. E poi, soprattutto, dopo questa considerazione di politica interna britannica, siamo in arrivo finalmente per il libro bianco che Theresa May ha promesso, quello cioè che dovrebbe concretamente indicare, sono 12 punti quelli fondamentali, le linee a cui il governo guidato, conservatore guidato da Theresa May, intende attenersi, lo dichiara prima, intende attenersi al tavolo poi delle trattative che si apre una volta attivato l'articolo 50, cioè quando inizia la procedura per cui ci si siede a un tavolo e ci si confronta su che cosa propone la Gran Bretagna dall'altra e dall'altra che cosa è disposta l'Unione Europea a riconoscere. L'interesse per questi punti è molto concreto perché secondo me consente di capire per la prima volta da che esiste l'Unione Europea e da che esiste quindi la circostanza concreta di un paese che chiede alla luce dei trattati di uscire, di riflettere su che cosa concretamente avverrebbe qualora analogamente altri paesi, per esempio l'Italia, decidessero di percorrere una strada simile, come molti di voi si sono convinti nel tempo che sarebbe forse preferibile. Anche perché ricordatevi che si può uscire dall'Unione Europea, secondo i trattati non si può uscire dall'euro, nel senso che le regole non sono previste. Allora, per capire meglio che cosa ci consegna questo voto di utile anche per noi come elemento di riflessione, abbiamo collegato da Londra Cristina Marconi, giornalista italiana che però opera di lì, scrive per Il Messaggero, l'abbiamo più volte chiamata anche per darci testimonianze, spiegazioni e analisi. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Cristina. A te Oscar, a tutti quanti. Allora, iniziamo a spiegare un secondo la portata di questo voto dal punto di vista numerico e spiegaci un secondo cosa significa un voto che apparentemente col criterio della sinistra italiana è una contraddizione, o no? Allora, non è una contraddizione se si guarda la storia del Labour. Uno pensa sempre che i laburisti siano europeisti, non è assolutamente scontato e non era scontato neanche prima del voto del 23 giugno scorso. Quello che è successo l'altro ieri col voto in Parlamento è secondo me finora forse il fenomeno più inquietante che c'è stato da quando abbiamo avuto questo risultato referendario, nel senso che comunque un voto così compatto e un Parlamento così docile non si era mai visto. E con un'opposizione perché i voti a favore tanto per dirle hanno sfiorato quasi quota 500, insomma. No, ma è una cosa incredibile, con un solo conservatore, Kenneth Clark, che secondo me bisogna fargli le statue a Kenneth Clark, vabbè, questo per adesso. Il discorso che ha fatto, ma per il coraggio che ha espresso. Allora, quello che è successo è semplicemente che nessuno ha voglia di passare per europeista. In questo paese c'è una psicosi che va in ormai c'è da tempo. L'Europa è materiale incandescente e in questo momento pochissimi deputati si sono presi la responsabilità di dire la Brexit no, o almeno la Brexit così no, perché poi comunque sia bisogna anche ragionare non solo nei termini binari di stiamo dentro, stiamo fuori, ma anche cercare di pensare a quanti strumenti questi deputati avevano e hanno ancora, si spera, per plasmare un po' quella che sarà la decisione di Theresa May. Semplicemente, siccome non è più, cioè il passaggio che c'è stato, la trasformazione che c'è stata dopo il referendum, perché non è più la Brexit di UKIP, è la Brexit del Labour, la Brexit della classe operaia, la Brexit del Nord. E davanti a questa realtà, a questo cambiamento politico e sociologico di cui ancora diciamo nessuno è riuscito a fare una sintesi, a capire un po' dove possa portare, come gestirlo, tutto quanto. I laburisti semplicemente, cioè, Corbyn ha avuto troppa paura, Corbyn è il deputato di Islington non so adesso quali percentuali bulgare abbia votato a favore del Remain, però lui ha detto che per lui la sua idea di democrazia non è rappresentare il suo collegio, ma ormai così mettersi al servizio di un voto che comunque sia non è stato 52 contro 48, ora non è proprio una valanga, non è proprio una lavina, insomma. Quindi, comunque formalmente il motivo per cui il leader del Labour ha invitato i deputati del suo partito a votare a favore dell'attivazione dell'articolo 50 del Brexit era il rispetto della volontà della maggioranza degli elettori britannici. Esatto, siamo in un clima in cui quando i giudici hanno messo la loro prima sentenza sono stati chiamati in vice del popolo, in cui il Labour, che chiaramente non è un partito forte, che in questo momento non è un partito in grado di capire dove vuole andare, non è in grado di dare soluzioni, quindi tutto quello che fa è segue la May. La May che peraltro, come sappiamo, ne abbiamo parlato tanto anche qui, ha avuto questa sua virata populista o comunque insomma come vogliamo chiamarla, questo statalista, insomma comunque si è allontanata da tanti principi del partito conservatore per cercare di inseguire proprio questo ircocervo di questa classe ex operaia del nord a cui non sono state date risposte, di cui si sa poco, che non è raccontato dai giornali. Si sono preoccupati di non aver capito bene l'elettorato, questo è il problema, no? Esatto, e quindi siccome non hanno capito gli danno tutto. Come un bambino viziato, però, questo da... però resta il fatto che, voglio dire, per la famiglia socialista europea questa non è proprio una cosa. Io infatti per questo mi aspettavo un dibattito, invece qua non voglio dire che non se n'è accorto nessuno, ma quasi. Allora, per quale motivo poi invece un parlamentare su quattro laburista ha detto no, io non voto per l'articolo 50? Allora, semplicemente le ragioni, insomma, delle quali stiamo parlando, qualunque osservatore si accorge che comunque primo luogo dare carta bianca alla May con la sua hard Brexit, con le sue idee che comunque sono anche... Lei ha parlato di cool Brexit, ha detto né hard né soft ma cool. Ma ha detto anche blue, white, red, abbiamo tutte le Brexit, poi Oscar guarda alla carta. Sì, ma finché non però, si capisce che cos'è infatti. Esatto, e comunque la sostanza è che è una Brexit aggressiva, molto anglocentrica, in cui lei è convinta assolutamente che con questa storia della dell'intelligence britannica, insomma di qualche altro strumento che pensa di avere a sua disposizione, crede che a Bruxelles ci daranno tutto. Quindi semplicemente molti laburisti si sono posti il problema innanzitutto di vedere una giovane dello Shadow Cabinet che si è dimessa dicendo io non capisco perché, cioè non è la mia idea di democrazia dare carta bianca a una leader non eletta e non rispettare il voto della mia dei miei elettori. Cioè non è la mia idea di democrazia. Semplicemente magari tra chi ha deciso di votare contro il passaggio al secondo stadio e al voto finale di questo bill, per tanti c'è anche l'idea di fare vera politica, cioè semplicemente di far sentire un pochino smacciato sul collo, di far sentire... A dire la verità, Corbyn ai rivoltosi interni ha detto no, guardate che è il contrario, solo se noi votiamo a favore in Parlamento possiamo batterci meglio per le nostre idee nella trattativa che condurrà il governo May. Quando? Ho trovato una cosa sublime, di sublime perfidia all'interno del Libro Bianco, il momento in cui lei ha detto che comunque i deputati non verranno proprio non informati, verranno informati quanto gli eurodeputati sulle trattative. Cioè, lei intende fare tutto quanto, come dire, zitta zitta e in massimo silenzio. E allora, comunque insomma, sia, diciamo che questo è il tempo prima che abbiamo campagna, e poi non fa dibattito in Parlamento, poi non vota contro. Però quando è che ci vuole tirare fuori queste armi meravigliose? Non lo so, però al di là, insomma, questo è un problema di leadership che con Corbyn si è aperto nel Partito Laburista e resta. Ma andiamo invece, spiegaci un pochino abbastanza in concreto questi 12 punti. Che cosa in concreto ci consegnano sul tavolo? Cioè, cosa ci aspetta nella richiesta, nell'aspettativa dei britannici? A, B, che cosa insegnano in questa che comunque è una procedura senza precedenti, quindi è comunque destinata a costituire un enorme precedente per chiunque si proponga qualche cosa di simile negli altri paesi membri. Allora, cominciamo a capire i 12 punti cosa sono. Sì. Allora, i 12 punti sono quelli che lei ha enumerato a Lancaster House il 17 gennaio. Il Libro Bianco che è stato scritto, è stato finito alle 4:30 di notte, è diciamo una versione con un po' un make-up tecnico di quello che lei ha detto davanti agli ambasciatori. Le novità grosse sono che dà un contentino al Parlamento dicendo che voterà a fine negoziato, e poi il fatto che comunque in qualche modo scorpora due temi importanti su cui lei ha già le idee abbastanza confuse, l'ha detto. Su due temi ce le ha ancora più confuse, che sono immigrazione e Dogan. Su quelle due cose si parlerà a parte, si discuterà a parte, ci saranno dei progetti di legge a parte in modo da far parlare, insomma, far discutere un po' di più il Parlamento, questo volendo una buona notizia. Aspetta, però, allora iniziamo con questa cosa dell'immigrazione. L'immigrazione è stato uno dei motivi fondamentali adotto da chi ha chiesto Brexit agli elettori nel referendum e condiviso dagli elettori, cioè il ritorno al pieno controllo della parte Gran Bretagna dei flussi di chi entra. La questione del tutto aperta, cari ascoltatori, è che naturalmente nel momento in cui non fanno più parte dell'Unione Europea, gli stranieri non sono solo i cattivi extracomunitari, lo dico naturalmente con un po' di ironia, ma diventano anche i cittadini dell'Unione Europea. Quindi questa questione, fino a questo momento, dalla May e dalla leadership del partito Tories, rispetto a i lavoratori dell'Unione Europea che sono in Gran Bretagna o chi studia in Gran Bretagna, io ho visto dichiarazioni abbastanza contraddittorie. Te lo chiedo perché Proprio ieri la Le Pen in Francia ha proposto, cari ascoltatori, una tassa aggiuntiva sui contratti di lavoro agli stranieri, e la Le Pen deliberatamente non ha parlato di stranieri extracomunitari, parla di una preferenza per i lavoratori francesi. Quindi in Francia alle presidenziali la Le Pen dice: chiunque non assume francesi paga in più. È qualche cosa di simile quello che ha in mente Theresa May per i cittadini dell'Unione Europea, quindi italiani per primi, o no? Allora, la Le Pen si dovrebbe mettere in fila, perché questa proposta è già stata fatta qui in terra d'Alzone più o meno 20 giorni fa, e si parlava di una tassa di 1000 sterline su ogni lavoratore straniero. Compresi i cittadini dell'Unione Europea? Ma certamente, lei l'ha detto chiaramente, che comunque il suo problema è che se non si limita all'immigrazione europea lei non riesce a portare più i numeri. E quindi su questo lei è presa tra un divario tra quello che deve dire, perché ormai comunque già dai tempi di Cameron era stata data l'idea che l'immigrazione sarebbe stata portata al di sotto di certi numeri, e già si parlava di immigrazione europea. Ed è però d'altra parte fare anche i conti col fatto che le aziende hanno bisogno che l'economia gira anche grazie ai lavoratori europei. Una cifra della settimana scorsa che mi aveva molto colpito: 38.000 infermiere e infermieri sono europei, per non parlare dei medici. Ma poi quindi, nella comunità finanziaria, il polmone insomma dell'economia britannica, voglio dire, dai gradi più elevati fino ai trader nelle sale operative, la percentuale e la presenza di decine e decine di migliaia di persone che vengono dai paesi europei è altissima. Certo, ma anche la prospettiva di poter comunque aprire la tua azienda a Londra e sapere che ti verranno certo. Migliori, sapere che arriveranno. Quindi e lei questo qui non è che non lo sappia, però in questo momento, siccome appunto questo discorso sull'immigrazione è stato talmente tanto, questo è un altro regalo che ci ha fatto Cameron, perché comunque è stato lui a iniziare a parlarne molto. Poi sappiamo che comunque Theresa May già dai tempi al home office era molto fissata su questo tema. Comunque è il tema che cavalcano tutte le impostazioni sovraniste in tutta Europa, non è che se lo inventano loro, perché è così che spingano i voti, e ti assicuro che basta vedere anche gli SMS qua, c'è gente che inneggia, tanti. Sono d'accordissimo su questa cosa, e ti dico, cioè, personalmente, proprio da osservatrice, ho avuto la percezione a un certo punto, un paio d'anni fa, che stesse diventando troppo, appunto. Perché insomma la città si è trasfigurata. Comunque, allora, questo tema comunque si mette da parte, proprio per la delicatezza, perché significa in altre parole, senza libertà delle persone riconosciuta reciprocamente, veramente si torna indietrissimo, cioè si torna veramente agli anni 30, voglio dire, in Europa. Però io continuo a parlare della Gran Bretagna come pezzo dell'Europa, poi possiamo raggiungere e raggiungeremo accordi diversi, sa Dio quali, ma intanto significa passaporti tra tutti i paesi europei, sovrattasse tra i lavoratori anche i paesi europei. Vabbè, aspetta, Cristina, ci abbiamo un minuto di traffico e poi torniamo con te. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta con Cristina Marconi da Londra. Il voto del Parlamento a sorpresa, ma insomma a sorpresa fino a un certo punto, ma comunque maggioranza schiacciante per attivare il procedimento del Brexit. I laburisti che si spaccano ancora una volta, perché Corbyn dice votiamo a favore, però uno su quattro vota contro. I 12 punti di questo, le linee guida a cui si atterrà la May per l'apertura del tavolo di trattativa con l'Unione Europea. Abbiamo visto che intanto l'immigrazione, cioè una delle questioni più scottanti, perché riguarda la libera circolazione delle persone, dei cittadini intanto dell'Unione Europea in Gran Bretagna, non gli extracomunitari, per il momento si mette da parte, perché si riconosce che è una questione delicata, esplosiva. Mentre invece sugli altri punti, Cristina? Non c'è più, è caduta la linea, ragazzi? È caduta la linea, mi pare, sì. Quindi richiamatemela un secondo. Sì, no, non c'è più? Vabbè, detto tutto questo, capite che la delicatezza di quello che vi richiamavo prima, cioè del precedente della Le Pen, è che la Le Pen parla come candidata alle presidenziali francesi, ma di un paese che non ha deciso formalmente attraverso un referendum e un voto del Parlamento l'uscita dall'Unione Europea. Questo che cosa ci dice? Ci dice che la campagna elettorale francese, vi ricordo che si vota l'ultima di aprile e la prima di maggio il ballottaggio, sarà una campagna elettorale nella quale la Le Pen farà proposte se tiene fede a quello che ha già proposto ieri, come se la Francia fosse già fuori. Ha già detto del resto che la sua proposta, se fosse eletta, per quello che riguarda in quel caso la moneta comune, è quella di procedere a formalizzare una proposta nel più rapido tempo possibile per tornare a monete nazionali legate a un corridoio di cambio fissato verso l'alto e verso il basso, sia pur non facendo venire meno l'euro, ma come pura unità di conto, come era l'ECU, se ve lo ricordate, la fase in cui entrammo dopo che saltò il serpentone monetario europeo, che era uno dei delle fasi di avvicinamento all'euro, quando saltò nel 92-93 con la doppia crisi della lira, dell'Italia e della Gran Bretagna. Allora è tornata collegata Cristina Marconi. Allora, al di là dell'immigrazione, che verrà lasciata da parte per la sua natura esplosiva, quindi la libera circolazione delle persone, gli altri punti fondamentali di questi 12 che cosa ci raccontano? Allora, i punti fondamentali sono la giurisdizione della Corte Europea di Giustizia, che è un altro antico tema della May, che lei intende interrompere, cioè le due ragioni per le quali lei comunque vuole rinunciare, cioè pronta a rinunciare al mercato unico, è appunto il controllo sull'immigrazione da una parte e la fine della Corte Europea di Giustizia, la possibilità della Corte di decidere sulle questioni inglesi. Chiaramente pure su questo c'è un problema di tempi, nel senso che quando, come la trasformazione dell'acquis comunitario in legge inglese è una cosa che lei, insomma, presenta come un passaggio semplice, in realtà non lo è. La questione anche di come dirimere le infinite questioni che ci possono essere in questo paese da un punto di vista legale nei prossimi anni. Insomma, lei vorrebbe interrompere la giurisdizione della Corte già nel prima possibile. Riprendiamoci il nostro diritto. Il nostro diritto può essere solo nazionale e sovrano. Ecco, non... Esatto, sì. Questo. E poi sugli altri temi, appunto, cioè per quello che riguarda una delle architravi portanti della crescita, cioè i servizi finanziari, qual è l'idea dei britannici, visto che, tanto per cominciare, loro non sono nell'euro, non sono mai stati nell'euro, però avevano riconosciute delle facoltà molto rilevanti, stante anche la rilevanza per noi stessi europei continentali, però, della piazza finanziaria di Londra, non dimentichiamocelo, noi non dobbiamo farci del male a vicenda. Infatti io spero un approccio cooperativo e non muscolare nella trattativa. Per esempio, tutte le operazioni in euro condotte dagli intermediari sulla piazza di Londra avevano la facoltà di poter essere regolate nel clearing delle operazioni, anche se denominate in euro, eppur non essendo parte dell'euroarea, a Londra dagli stessi intermediari. Questa cosa qui, venendo meno al mercato unico, Londra dovrebbe rinunciarvi. Questo significherebbe per molti grandi intermediari ridislocare attività fuori dal Regno Unito, e di questo si è molto parlato perché le banche avevano fatto annunci di decine di migliaia di loro dipendenti costretti a ridislocarsi, chi verso l'Irlanda, chi verso la Germania e così via. Ma questo la May come si propone di affrontarlo? Allora, questo la May, come te, conta sulla speranza, nel senso spera che il buon senso dei suoi partner li porti a capire che sarebbe un danno per tutti se la City si implodesse. E quindi continua a parlare del miglior accordo possibile, continua ad essere molto, molto ottimista, molto anglocentrica, molto anche insomma, a descrivere quest'idea di questa City che diventa ancora più globale, ancora più influente. Nella pratica fa parte di tutti quei temi sui quali lei per adesso sta mantenendo un'ambiguità costruttiva. Bisogna aspettare gli europei se sono cattivi e vogliono indietro pezzi oppure no. Però il sottinteso è che ci si può fare male a vicenda, perché loro possono diminuire poi molto le tasse e noi molto meno. Aspettare Singapore. Ma a quel punto, e a me, devo dire la verità, fossi britannico voterei per quello attualmente, però al di là di questo, invece... Ma l'operaio del nord non fa parte della comunità finanziaria. Pensiamo all'operaio del nord a quel punto, cioè pensiamo a quel che resta, ma comunque c'è la manifattura, pensate a tutti i produttori, le case automobilistiche sono tutte straniere dai tempi della Thatcher, ma ci sono e come in Gran Bretagna. Ma a quel punto gli accordi commerciali, io ricordo a chi è in ascolto che per esempio la Svizzera non fa parte dell'area di scambio, libero scambio commerciale, quella che si chiama EFTA, al di là dell'Unione Europea, a cui per esempio partecipano paesi come la Norvegia. La Svizzera è stata costretta nei decenni a negoziare centinaia di accordi per singole famiglie di prodotti, beni e servizi. Ma la May ha chiaro che lo stesso destino aspetta la Gran Bretagna. La Gran Bretagna fa parte del WTO attraverso l'Unione Europea, per esempio, dovrebbe ricominciare da zero. Che cosa c'è su questo, punto nei 12 punti? Allora, su questo punto secondo me continua ad esserci molta vaghezza, nel senso che lei innanzitutto chiaramente c'è la grande speranza di poter giocare il jolly Trump, no? Questa relazione speciale che le possa permettere di darsi un po' una forte, esatto, ho capito, ma contento. Però per quello che riguarda i rapporti commerciali con noi, sai, Trump può poco. Ma guarda, sì, lo so, però Oscar, allora in questo momento chiunque vada dicendo che per stringere un accordo commerciale ci vogliono più di 2 settimane viene tacciato di tradimento. Sì, domani, ci vogliono mesi se non anni. Allora guarda, io ti interrompo qua, era solo per farvi capire, cara ascoltatore, perché non vi vogliamo trattenere per ore su ogni singolo punto dei 12 punti, che siamo ancora, scusate se ve lo dico, a caro amico. E bisogna sperare che in questi 2 anni l'Europa non salti per aria insieme all'euro, cosa che è possibile, eh? È possibile, non nascondiamocelo, e che comunque è di fronte a noi un'opera di una complicazione che i politici non sono disposti ad ammettere. Pensateci tutti, perché bisognerà avere tutti ragionevolezza. Grazie a Cristina Marconi, continuate su Radio 24, appuntamento con me, Carlo Alberto, Cannavale Maffè, Mario Seminiero, domani dalle 10 alle 12 a Conti della Belva, dove parleremo. Cosa vuol dire Draghi quando ci dice chi se ne va dall'euro bisogna pagare il conto? Che conto? A quanto abbonta? Secondo le procedure di infrazione verso l'Unione Europea, a quanto abbontano? Quanto ci sono costate? Domani dalle 10 alle 12.